GR24, il sole 24 ore. Liste per le regionali alle 18, il Consiglio dei Ministri si va verso un decreto interpretativo, Bersani impensabile, un rinvio del voto. Ancora scioperi ad Atene, il governatore Draghi misure serie che hanno convinto. Scandalo, preti pedofili in Germania, abusi nel coro diretto dal fratello del Papa. Traffico d'armi, l'Iran chiede il rilascio dei due cittadini arrestati a Milano. Buona giornata da Anna Rita Lambrosio e dalla redazione. In primo piano sempre il caos delle liste. Oggi dovrebbe essere una giornata decisiva. Ieri l'incontro tra il premier Berlusconi e il capo dello Stato Napolitano non ha sbloccato la situazione e tutto è legato al Consiglio dei Ministri di oggi alle 18. Situazione fluida, si diceva ieri. È ancora così? Lo chiediamo in diretta ad Andrea Viali. Andrea. Sì, Anna Rita, è ancora così e la maggioranza anche in queste ore è al lavoro per trovare una via d'uscita da questa situazione molto complicata. Nel pomeriggio, come dicevi, dovrebbe riunirsi un Consiglio dei Ministri che però non è stato ancora convocato ufficialmente. Il ministro La Russa ha comunque detto che la riunione si farà e ha anche spiegato che potrebbe essere varato un decreto che spieghi come interpretare la legge che regola la presentazione delle liste e che tanti problemi ha creato in questa circostanza. Non è chiaro se questa soluzione possa in qualche modo venire incontro ai rilievi mossi ieri dal Presidente della Repubblica Napolitano, lo ricordiamo, si è detto contrario allo strumento del decreto e ha anche invitato la maggioranza a cercare un accordo con tutte le altre forze politiche, accordo che al momento non c'è, anzi stamattina dal Partito Democratico è arrivato un nuovo avvertimento: no al rinvio del voto e no alle scorciatoie, ha detto il segretario Bersani. Intanto sempre questa mattina il Popolo delle Libertà ha presentato il ricorso al TAR del Lazio dopo l'esclusione della sua lista nella provincia di Roma. L'udienza in questo caso si terrà lunedì mattina. A Milano invece anche oggi, come già ieri, i delegati della lista di Roberto Formigoni, lista che ricordiamo è stata esclusa dal voto in Lombardia, stanno controllando le firme presentate all'ufficio elettorale dalle altre liste e sostengono i delegati di Formigoni di aver già riscontrato diverse irregolarità. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. A te la Rita, alla linea Anna Rita. Grazie Andrea. E i vertici del PDL non parlano, non parla da Napoli Fini, che si trova appunto nel capoluogo partenopeo per un convegno. Berlusconi invece è stato questa mattina al congresso della UIL, col quale ci colleghiamo. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Berlusconi è appena andato via senza rilasciare dichiarazioni. Oggi era la giornata conclusiva del 15° congresso della UIL che ha celebrato anche i 60 anni della fondazione di questo sindacato. E Berlusconi è arrivato qui alle 10.30, ha assistito per oltre due ore ai festeggiamenti, ci sono state proiezioni di video, brevi interventi dal palco e un concerto conclusivo con varie opere eseguite da un'orchestra. Il premier è rimasto seduto in prima fila accanto ad Angeletti, ha assistito sorridendo, applaudendo più volte senza mai intervenire. Una visita di cortesia, quella del premier, che secondo i programmi iniziati sarebbe dovuto durare al massimo 45 minuti, anche perché come sappiamo oggi è una giornata molto complicata con i problemi delle liste da risolvere, ma invece contro ogni aspettativa Berlusconi ha trascorso qua l'intera mattinata, forse anche per dare un messaggio di serenità e di tranquillità nonostante tutto. Poi c'è stato anche un breve una brevissima intervista di Angeletti sul palco, il quale ha ribadito la sua proposta di riforma fiscale da realizzare subito e la posizione della UIL sull'articolo 18 che non verrebbe toccato dalla possibilità di arbitrato inserita nel DDL lavoro passato al Senato. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra, al caos delle liste era dedicato il nostro sondaggio. Come risolvere il pasticcio, per usare un termine caro al presidente Napolitano, delle liste alle regionali? Si vedrà se passerà l'idea di un decreto o di una soluzione politica o del buon senso, secondo alcuni. Ma per la maggior parte dei nostri ascoltatori, esattamente il 70%, in realtà non è necessario alcun provvedimento per riammettere tutti al voto. Come dire, chi ha seguito le regole bene, gli altri stiano fuori. Dai radicali, autori dei ricorsi che hanno creato la situazione attuale, viene indicata una via di uscita. Sentiamo il segretario nazionale Mario Staderini. Di fronte a chi sta cercando di sanare semplicemente in due regioni il loro errore, a quel punto bisogna bisogna prendere atto che se si vuole salvare la democrazia, il diritto e la Costituzione, allora sarebbe corretto annullare le elezioni in tutta Italia e poi anche ridefinire le regole sugli spazi di informazione televisiva pari per tutti. Ma Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Convegno sull'economia a Roma, il governatore Draghi ha parlato delle misure anticrisi adottate in Grecia. Proprio da Atene arriva in questo istante un'ultima ora. Un gruppo di alcune decine di persone ha attaccato la manifestazione sindacale in occasione dello sciopero di 3 ore contro il piano di austerità varato dal governo greco. La polizia è intervenuta, ci sono stati scontri davanti al Parlamento con alcuni esponenti della sinistra radicale. Come detto, Draghi ha promosso questi interventi del governo greco. Ci colleghiamo in diretta con Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Promuove le misure di risanamento dei conti pubblici il presidente del Financial Stability Board e governatore della Banca d'Italia. Mario Draghi interviene sulla situazione in Grecia e sul pacchetto di misure anticrisi del governo Papandreou a margine di una giornata di studio organizzata qui all'Università Roma 3. Sentiamo allora le sue parole al nostro microfono. Come avete visto dal successo dei mercati, le misure sono state ben accette dai mercati, sono state ben ricevute dai mercati, dalla Commissione, dalla Banca Centrale Europea, quindi sono misure molto impegnative che però portano al risultato che si voleva. Naturalmente ora occorrerà verificare la loro attuazione nel corso dei mesi a venire. Un pacchetto di misure per il contenimento della spesa pubblica da 4,8 miliardi che ha lo scopo di ridare sostenibilità ai conti dello Stato e riavviare un percorso di crescita economica per il Paese. Tagli fiscali come quello della 13ª e della 14ª mensilità dell'indennità, congelamento delle pensioni a cui si oppone la maggioranza dei lavoratori greci che, come ricordavate anche voi, oggi sono in sciopero. Dicevamo, il governatore Draghi è intervenuto all'Università Roma 3. L'occasione è la giornata in onore dell'economista Guido Rei e il suo avvio all'insegnamento universitario. Una figura unica nel nostro paese per rigore, pragmatismo e impegno nelle istituzioni è stato l'omaggio dal palco di Draghi all'ex presidente Istat, che collaborò anche con l'ufficio studi della Banca d'Italia. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara. Tavolo tecnico sulla Fiat di Termini Imerese alle 15 al Ministero dello Sviluppo Economico. Il ministro Scajola ha già detto che sarà ancora un incontro interlocutorio e per questo FIM, FIOM e WILM si preparano a mettere in campo un nuovo sciopero che questa volta potrebbe riguardare i lavoratori di tutti gli stabilimenti europei del gruppo. La mobilitazione dovrebbe essere messa in campo prima del 21 aprile, giorno in cui l'amministratore delegato Marchionne presenterà il piano di sviluppo del gruppo. Ed ora parliamo di pedofilia. Voci meravigliose, voci del famosissimo coro di Ratisbona diretto da Georg Ratzinger. Oggi il vescovo di Ratisbona ha ammesso che sono stati commessi abusi sessuali nell'ambiente di quel coro proprio all'epoca in cui era diretto dal fratello di Papa Benedetto XVI. Il vescovo lo ha scritto in una lettera ai genitori pubblicata sul suo sito internet. Gli autori degli abusi sarebbero due, sono deceduti entrambi nel 1984. La Santa Sede sta prendendo molto sul serio tutta la vicenda dello scandalo di pedofilia in Germania, ha detto il vice direttore della sala stampa vaticana, padre Ciro Benedettini, il quale però ha precisato che il Vaticano non vuole intervenire direttamente sul caso del coro di Ratisbona. Ieri invece il Vaticano era intervenuto sul giallo della beatificazione di Papa Wojtyła, smentito un rallentamento, ma l'ultimo passaggio dell'iter è ancora da definire. Se è un miracolo, dovrà deciderlo la Chiesa. Io so solo che prima avevo il Parkinson e poi, dopo aver pregato Giovanni Paolo II, la mia malattia è scomparsa. Suor Marie Simon Pierre, francese, ha sempre commentato così la sua guarigione, 2 mesi dopo la morte del pontefice, dal male diagnosticatole nel 2001. Una storia arrivata al postulatore della causa di beatificazione di Wojtyła, Monsignor Oder, è scelto come caso da portare all'esame della consulta medica che in Vaticano decide deciderà ora se di miracolo si può veramente parlare. Perché una persona sia proclamata beata, infatti, occorre che venga riconosciuto un miracolo attribuito alla sua intercessione dopo la morte. E di presunti miracoli attribuiti a Wojtyła ce ne sono tantissimi, in vita e in morte. Il lavoro dell'equipe in Vaticano è ancora all'inizio. Si potrebbe anche decidere di scegliere un altro dei 251 casi selezionati nel frattempo, di guarigioni inspiegabili per la scienza. Tra questi, quello di un bimbo polacco ricoverato a Danzica per un tumore ai reni nel 2006. È improbabile che Wojtyła salirà agli onori degli altari il 16 ottobre, ma il quando questo avverrà per la sua amica di sempre, Wanda Poltavska, conta molto poco. Tutti sanno che è santo. E se Chiesa fa questo momento, questo ufficialmente, oggi o domani o dopodomani, non si cambia niente, lui al cielo. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Sarebbe coinvolto anche un sacerdote nell'inchiesta sugli appalti relativi ai grandi eventi. La scorsa notte ci sono stati altri due arresti. L'imprenditore Francesco De Vito Pisciscelli e l'avvocato romano Guido Cerruti sono stati arrestati nella notte su disposizione del GIP di Firenze Rosario Lupo. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore, ora Regina Celi, sarebbe l'anello di congiunzione tra il circolo sportivo La Ferratella e la BTP, mentre l'avvocato agli arresti domiciliari avrebbe curato gli affari della Scuola dei Marescialli dei Nuovi Uffizi grazie ai suoi rapporti con il Ministero. Dall'intercettazione telefonica e non solo, sarebbe emerso un tentativo per far rientrare nell'appalto per la Scuola Marescialli di Castello la società di costruzioni Baldassini e Gnozzi. Operazione che sembra andare a buon fine, poiché il 27 gennaio l'ex numero uno della BTP Fusi aveva esultato al termine di una riunione presso il provveditorato delle opere pubbliche, dove gli avevano chiesto di rinunciare al lodo arbitrale che in cambio entro due mesi avrebbe potuto riaprire il cantiere alla Scuola Marescialli di Castello. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Dopo anni di lavori è stato portato a compimento il restauro del ciclo di affreschi che decorano il Tiburio, la parte interna della cupola della Abbazia Cistercense di Chiaravalle, grazie ad Intesa San Paolo. Oggi la presentazione alla stampa. L'incontro sarà anche l'occasione per tracciare un bilancio dei 20 anni del progetto Restituzioni. Il direttore delle relazioni esterne di Intesa San Paolo, Vittorio Meloni, al microfono di Adriana Fracchia. Si tratta di un restauro molto importante, un lavoro piuttosto oneroso e complesso, perché parliamo di affreschi molto rovinati che andavano ricostruiti in più parti e per i quali è stato necessario fare un intervento molto lungo. Quindi questo restauro finalmente è arrivato a termine, vedranno restituiti in uno dei monumenti l'abbazia di Chiaravalle più famosi in Lombardia, più importanti per i lombardi, il Tiburio attribuito a Stefano Fiorentino, sarà completamente visibile e disponibile a qualunque visitatore. Questo restauro è anche un'occasione per tracciare un bilancio dei 20 anni del programma Restituzioni. È un antico programma iniziato, diciamo, 20 anni fa in una delle banche che poi avrebbero dato vita a Banca Intesa San Paolo. Questo programma è andato avanti e sostanzialmente si basa sul presupposto che una banca possa dare un contributo alla cultura e all'arte del paese restaurando opere d'arte di privati e del pubblico e poi restituendole a loro. Da qui il nome del programma, che ha reso possibile il restauro di oltre 600 opere importantissime, quadri o affreschi di Tiepolo, di Tintoretto, il portone d'ingresso di San Marco, per parlare di un'opera monumentale, e oggi per l'appunto gli affreschi di Stefano Fiorentino. Noi riteniamo che questo faccia parte, diciamo, delle politiche sociali che una banca deve avere, un modo per restituire parte della ricchezza che si crea alle comunità nelle quali la banca opera, e questa è l'ultima testimonianza, anche piuttosto importante, di un lavoro di questo genere. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione, da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del caos delle liste per le regionali. Alle 18 Consiglio dei Ministri si va verso un decreto interpretativo, ma Bersani ha già detto che è impensabile un rinvio del voto. Intanto c'è un'ultima ora che riguarda la situazione milanese, quella della Lombardia. Il presidente della quarta sezione del TAR ha fissato per domattina alle 9:30 la Camera di Consiglio per discutere, se concedere o meno, la sospensiva del provvedimento di esclusione della lista per la Lombardia di Roberto Formigoni. Ancora scontri ad Atene, oggi 3 ore di sciopero. Il governatore della Banca d'Italia Draghi ha detto che le misure adottate dal governo sono serie ed hanno convinto i mercati. Intanto proprio pochi minuti fa è stato deciso dalle due grandi confederazioni sindacali greche che ci sarà un nuovo sciopero generale ad Atene l'11 marzo. Abbiamo parlato anche dello scandalo dei preti pedofili in Germania. Abusi nel coro diretto dal fratello del Papa. E adesso apriamo l'ampia pagina estera, l'apriamo con una notizia che purtroppo arriva dal Cile, dove c'è stata una nuova scossa di terremoto, una scossa di terremoto molto forte, 6.8 della scala Richter. L'epicentro è sempre lo stesso, localizzato in mare a 33 km di profondità, a 30 km da Concepción. E adesso parliamo di Iran, come avevamo anticipato, perché protesta il governo iraniano per l'arresto di due suoi cittadini in Italia, a Milano. Erano 2007, secondo la procura milanese, e trafficavano armi. È intervenuto anche il ministro Frattini. Respingo con fermezza qualunque insinuazione iraniana sull'uso strumentale dei recenti arresti da parte della magistratura italiana. Allora sentiamo prima le motivazioni iraniane e poi i dettagli di questa inchiesta lombarda. È passato meno di un mese dall'ultima convocazione al Ministero degli Esteri iraniano dell'ambasciatore italiano a Teheran, Alberto Bradanini. Allora si trattava di una protesta ufficiale per le critiche al presidente Ahmadinejad, espresse in Israele dal premier Berlusconi. Questa volta la vicenda è meno plateale, ma comunque delicatissima. L'Iran chiede chiarimenti sull'arresto di due suoi cittadini nell'ambito di un'inchiesta su un presunto traffico di armi verso la Repubblica Islamica e ne chiede l'immediato rilascio. Uno è un 55enne residente a Torino, l'altro un giornalista della televisione pubblica IRIB, accreditato da anni a Roma. Altro che spia, commentano dalla sua TV, ma Ahmadinejad è una vittima, è vittima di un complotto contro l'Iran. È un piano americano sionista a cui aderisce anche l'Italia, tuona il portavoce del ministro degli esteri iraniano. Bugie, dice ancora IRIB TV, rilanciate dalle televisioni satellitari della penisola araba, Al-Arabiya e Al Jazeera, entrate in campo, sembra di capire, per screditare lo sciita Iran. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Armi arrivate in Iran violando l'embargo, armi comprate in Germania ma da società italiane, e anello di congiunzione erano due agenti dei servizi segreti di Ahmadinejad, residenti a Roma e Torino. Era partita da una segnalazione dell'AISE, l'ex SISDE, l'inchiesta milanese diventata un caso diplomatico tra Italia e Iran. Un'indagine che dopo il sequestro di un carico di puntatori in Romania, dopo 10 mesi di intercettazioni e di spunti provenienti anche da Svizzera e Gran Bretagna, ha ricostruito le rotte del traffico di armamenti, lenti per fucili da cecchini, esplosivo, paracadute, e la compravendita ha riguardato anche 9 elicotteri da guerra, poi bloccati in Mali. Compito, secondo l'inchiesta dei 2007 iraniani, era di fare soprattutto da ponte con Alessandro Bon e Arnaldo La Scala, due ex dipendenti Beretta che con la loro società Antares compravano armi in Germania, come ha spiegato il procuratore aggiunto Armando Spataro. Merce prodotta all'estero e poi triangolata tra Italia ed altre nazioni per nascondere la vera e finale destinazione, l'Iran. E risultano ancora latitanti altri 2 iraniani raggiunti da ordinanza di custodia cautelare. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Iraq. Dopo i membri dei servizi di sicurezza, i pazienti ricoverati in ospedale e i detenuti, anche gli iracheni domiciliati all'estero hanno cominciato a votare oggi per le legislative. Dall'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, la storia di 3 donne. 1800, una grande novità. Le donne irachene candidate alle elezioni politiche del 7 marzo sono agguerrite. I manifesti elettorali hanno tappezzato ogni angolo di Baghdad. Molti ritraggono donne ricoperte interamente di nero accanto ad altre truccate e con vesti di foggia occidentale. Ne incontriamo 3, una sciita, una sunnita e una curda. My name is Salam Nemesen. I am an economist. Salam Nemesen, 50 anni, ci riceve nella sua casa nel quartiere sciita di Al-Benak. Ci dice che la situazione per le donne sta migliorando, ma che c'è ancora molto da fare. Una nuova legge prevede che almeno il 25% dei parlamentari deve essere donna. Ma in realtà noi occupiamo posizioni di basso profilo. Siamo una decorazione politica, solo per mostrare che sono moderati. Nel quartiere sciita sunnita di Jadriya, Azhar al-Shakli, parlamentare sunnita, candidata nella lista irachia ed ex ministro per le donne, racconta: abbiamo 72 donne parlamentari, ma vogliamo essere di più. Vogliamo più di 6 ministri. Oggi ne abbiamo solo 4. Le divisioni confessionali contano ancora, precisa. Roberto Bongiorni, GR24, Il Sole 24 Ore, Baghdad. E da Londra è in corso la deposizione del premier Gordon Brown alla commissione d'inchiesta sulla guerra in Iraq. Il faccia a faccia con la commissione dell'inchiesta Kilcott e di fronte a tutti i britannici, questa volta è toccato a lui, il primo ministro Gordon Brown, che ai tempi dell'invasione dell'Iraq, al centro dell'inchiesta pubblica, era cancelliere di Tony Blair. La guerra del 2003 è stata giusta e determinata dalla violazione delle risoluzioni ONU da parte di Saddam Hussein, ha dichiarato Brown, rompendo così 7 anni di silenzi. Di fronte alla commissione, l'ex cancelliere ha rivelato che già nell'estate del 2002 rassicurò Tony Blair che non avrebbe ostacolato l'invasione dell'Iraq adducendone i costi. Fino all'ultimo ho sperato che si arrivasse ad una risoluzione diplomatica, ha insistito Brown, che ha lasciato sul campo iracheno 179 dei suoi soldati. Il primo ministro, che ha ufficialmente lanciato l'inchiesta nel luglio del 2009, avrebbe voluto che questa rimanesse segreta almeno fino dopo le politiche che si stanno preparando per maggio con molte tensioni politiche. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Il Cile è senza pace. All'alba di oggi c'era stata una scossa di 6 gradi Richter, poi poco fa 6.8 e c'è stata una terza scossa 6.6 della scala Richter proprio qualche minuto fa. Oggi nel paese è atteso il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon su invito del governo locale. Sono state disincagliate le oltre 50 imbarcazioni bloccate nelle acque gelate al largo delle coste svedesi, fermi per ore traghetti con migliaia di persone. Il gelo estremo del Baltico, che per alcuni giorni ha intrappolato decine di navi, non sorprende i ricercatori, in quanto da 3 mesi il freddo si presenta con valori ben al di sotto delle medie, in un'area che si distende proprio dal Baltico fino alla Siberia e alla Mongolia. Il fenomeno è legato ad una sacca di aria fredda che è scesa dalle regioni artiche e che ha creato un'anomalia che ora è diventata persistente. Un'anomalia che fin da dicembre aveva fatto registrare per più giorni un record di temperatura di meno 30 gradi a Oslo. Il freddo ha interessato la fascia del pianeta che si distende dall'Europa agli Stati Uniti, ma in Groenlandia e in Canada, aree più a nord, le temperature sono state al di sopra delle medie. Le temperature infatti sono superiori alle medie fino al Polo Nord, dove i ghiacci invernali hanno un'estensione che è di alcuni milioni di chilometri quadrati inferiore alle medie degli ultimi 30 anni. In ogni caso l'inverno che sta per andarsene è un'ulteriore prova dei fenomeni anomali che stanno interessando l'intero pianeta. Luigi Bignami, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso divertiamoci un po', è diventata una vera e propria epidemia in rete. Una vecchia canzone russa ribattezzata Trololò sta facendo il giro del mondo, senza alcuna ragione, per divertimento. Attenzione, perché ora che la sentite potreste non liberarvene più. Qualcuno l'ha lanciata in rete, non si sa più da dove e da quando, attraverso un video. Una vecchia ripresa della televisione sovietica, c'è una piccola scritta che indica 1976. C'è un cantante impomatato dall'aria vagamente inquietante. La cosa buffa è che attraverso il tam-tam dei social network questa canzone ha fatto il giro del pianeta senza che nessuno, probabilmente fuori dalla Russia, conoscesse il vecchio cantante. Cercando si scopre che il suo nome è Edward Anatolievich Hill, classe 1934, artista nazionale della Federazione Russa, membro dell'Ordine della Bandiera Rossa del Lavoro e dell'Ordine dell'Amicizia dei Popoli. E questa canzone, senza parole, si chiama Sono felice di essere arrivato a casa. Ma soprattutto, in queste ore, ha dato origine a mille versioni diverse. Intanto anche le altre canzoni di Edward Hill stanno diventando un culto in rete. Insomma, ha finalmente superato la cortina di ferro. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura, parliamo di calcio, ne parliamo con Carlo Genta e torniamo a parlare di Super Mario Balotelli, perché c'è una novità, sostenitori inattesi del suo ingresso in nazionale, della convocazione ufficiale, vero Carlo? Vero Narita, ma ha ragione Marcello Lippi, su Balotelli in nazionale siamo ormai alla campagna elettorale o alla campagna referendaria, fate come volete, però ognuno dice la sua, chiaramente largamente maggioritario il partito che vorrebbe Balotelli in nazionale, che ha oggi un nuovo iscritto in atteso, che è la Padania. Padania che dedica la controcopertina a Balotelli, che spinge per Balotelli in azzurro, che scrive un'ovvietà, però da queste pagine magari non te l'aspetti, facendo riferimento all'Under 21 dell'altra sera che schierava Ogbonna, Okake e Balotelli, italiani dalla pelle scura, scrivendo: sono italiani a tutti gli effetti, sono nati nel nostro paese, hanno studiato qui, hanno imparato qui i rudimenti del calcio, da decenni dappertutto certi pregiudizi sono stati superati. Questo scrive la Padania, che appunto spinge Balotelli. Sono ovvietà, ripeto, ma dette da queste pagine, insomma, fanno anche piacere, direi. Adesso c'è da convincere una sola persona, la più importante, Marcello Lippi. Grazie Carlo, e noi chiudiamo, siamo ai saluti. Un flash: Calderoli, ministro della semplificazione, ha detto che se si dovesse andare al voto senza la presenza delle liste del PDL in Lombardia, il voto sarebbe nullo per il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione. Dunque è una vicenda fluida, così abbiamo aperto, così chiudiamo questo notiziario. Grazie a Fabio Cantadori, vi lasciamo ad Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.